tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Con la vittoria del Brasile in Confederation Cup si è chiusa praticamente la stagione calcistica 2008-2009. Ufficialmente si chiuderà stasera quella internazionale con la finale dell'Europeo Under 21 tra Germania e Inghilterra in Svezia. Per quanto riguarda il calcio italiano, da giovedì c'è il primo raduno di una squadra in vista della stagione prossima. Sarà la Roma la prima a tornare al lavoro, come si dice, e quindi è chiaro che siamo in una fase di passaggio. Per intanto si chiude la Confederation con dei numeri interessanti, perché per esempio ieri sera su Rai 1 la finale Brasile-Stati Uniti è stata vista da 6 milioni e 327.000 persone, che sono tante in epoca estiva, tant'è vero che lo share è stato del 32%, un televisore su tre in pratica. Poi vedremo anche come il Brasile, grazie alla vittoria di ieri sera in rimonta, sia tornato in testa tra i bookmaker, tra i favoriti della prossima edizione. Ma visto che questo bilancio è per l'appunto in proiezione mondiale del 2010, comincerei col chiamare in causa Stefano Piazza, che ha seguito per noi questa manifestazione in Sudafrica. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Allora, se cominciamo da un punto di vista tecnico, e poi sentiremo ovviamente l'opinione degli ascoltatori, come sempre all'800240024, dicevo, se partiamo da un punto di vista tecnico, la sintesi mi sembra questa. C'erano tre favorite, che erano Italia, Spagna e Brasile, in ordine sparso. Una è tornata a casa subito, ed è l'Italia. Una è stata eliminata a sorpresa in semifinale, l'altra ha vinto, ma soffrendo. Questo significa che o gli Stati Uniti sono diventati a loro volta una grande potenza calcistica mondiale, e potrebbe anche essere, oppure c'è in atto di nuovo un livellamento, come ogni tanto accade ciclicamente nel calcio. La tua opinione vista dal vivo com'è? Beh, guarda, se posso cominciare con una battuta, intanto Lippi ha ricordato prima di partire per il Sudafrica che chi vince la Confederations Cup poi in genere non rivince il mondiale l'anno successivo, per cui dovremmo essere al sicuro per il 2010 da questo punto di vista. Io non credo che ci sia un livellamento. Gli Stati Uniti sono sicuramente in grande crescita, probabilmente superando il turno in modo abbastanza fortunoso hanno acquistato fiducia nei loro mezzi, infatti sia con la Spagna che nel primo tempo di ieri hanno giocato molto bene, con la Spagna hanno strameritato di vincere. Però ecco, sono stati sotto tutti i punti di vista contro un'Italia non eccezionale e con un Brasile che non ha mai spinto al massimo. Sembravano abbastanza pietrificati, sembravano incerti e sono scesi in campo, soprattutto con il Brasile, molto timorosi. Per cui negli Stati Uniti dagli anni 90 gira lo slogan campioni del mondo nel 2010. Io credo che giocando come hanno fatto dall'Egitto in poi potranno fare una bella figura, però alla fine vincerà una delle grandi, di sicuro. In Africa sperano che sia un'africana, credo comunque che sarà una delle solite. Riguardo invece alle tre favorite, l'Italia purtroppo attraversa un momento particolare, insomma, credo che l'abbiate analizzato anche voi in lungo e in largo nei giorni scorsi. Lippi probabilmente... Abbastanza, grazie, no, dico questo sì. Lippi probabilmente sta commettendo lo stesso errore di Berzotta nell'86, insomma. Riguardo la Spagna invece il timore di molti, io parlavo con molti inviati spagnoli, è che tolta la parentesi dell'europeo dello scorso anno sia tornata la bella incompiuta, che gioca delle grandi qualificazioni e poi quando arriva a un torneo internazionale si perde un po' per strada. Sì, insomma, anche se gioca pallone ad un livello tale che a parer mio gli può consentire qualunque risultato. Io ho sotto gli occhi gli aggiornamenti di un bookmaker che stamane ovviamente tempestivamente ha rimesso in quadro le quote per il prossimo mondiale alla luce della Confederation. Allora, è tornato in testa il Brasile come favorito a 5,50, è salita a 6 la Spagna, poi a 7 c'è l'Argentina, a 10 l'Inghilterra, a 12,50 l'Olanda, a 14 la Germania, l'Italia è stata declassata a 17. In questo momento scommettere sull'Italia campione del mondo varrebbe il prossimo anno, in caso di esito positivo, 17 volte la posta. Quindi è vero che in questi aggiornamenti c'è sempre una componente emotiva, però poi i bookmaker non regalano niente, insomma non sono nati, no, per fare i benefattori, sicché insomma, è un parametro comunque che un po' di riferimento lo dà. Sì, senz'altro. Io credo che il Brasile, visto in questa Confederations Cup, sia comunque una spanna sopra gli altri, anche per concretezza. Credo che Dunga abbia fatto un ottimo lavoro in questo. La mia sensazione è che loro, a parte il secondo tempo di loro e forse di ieri, scusami, e forse sul 3-3 con l'Egitto, non abbiano mai davvero spinto al massimo, per cui nonostante non abbiano giocato al 100% sono stati comunque superiori a tutti gli avversari. La mia impressione è che possano tranquillamente fare a meno anche dei grandi assenti Ronaldo, Adriano e Ronaldinho nel 2010. Sì, anche se l'unica vera grande dimostrazione di superiorità l'hanno data proprio contro l'Italia, cioè l'unica volta in effetti che probabilmente si sono impegnati a fondo, ma mentalmente anche da prima della partita, è stata con l'Italia, e infatti è stata una lezione di quelle che resteranno. Sempre in chiave 2010, che cosa ha detto questo mondiale da un punto di vista climatico? Perché si gioca nell'emisfero sud e quindi per la prima volta dal 78, dal mondiale d'Argentina, si gioca d'inverno. Questo ha comportato e comporterà delle differenze di preparazione e poi di rendimento? Guarda, dal punto di vista del rendimento e della preparazione forse può essere un dato a favore dei giocatori, nel senso che saranno sicuramente favoriti i recuperi dal punto di vista fisico, non vedremo giocatori boccheggianti come è capitato per esempio negli Stati Uniti. Certo. Può essere una certa penalizzazione per i tifosi, anche ieri sera in tribuna sembrava di essere a gennaio a Milano, per cui da questo punto di vista per i tifosi forse è un problema, non per i tifosi africani che sono costantemente scatenati magari con le loro vuvuzela, però ecco, diciamo che per esempio una decina di giorni fa a Pretoria il clima era assolutamente accettabile, negli ultimi giorni a Johannesburg invece è stato decisamente polare, soprattutto la sera allo stadio. Sì, questo effettivamente cambia da un punto di vista di rendimento atletico soprattutto, perché il recupero, certo, il recupero col fresco è più facile, soprattutto rispetto a edizioni pazzesche, quale quella che tu hai ricordato, del 94 negli Stati Uniti. Gli stadi, insomma, a sentire da qua e a leggere, a seguire di lontano, questi stadi sembrano certamente più belli di quelli italiani, e credo che non sia una grande impresa. Vissuti da vicino e da dentro, come appaiono? Sì, sono d'accordo con questa analisi. Sono stadi molto belli, molto funzionali. Quelli che hanno usato quest'anno, 3 su 4 perlomeno, nascono per il rugby. Quindi sono molto vissuti e vissuti molto bene in Sudafrica. Il limite degli stadi che ho visto quest'anno, tolto forse Pretoria, il cui manto è stato rifatto 2 mesi fa, è stato per l'appunto la tenuta del terreno di gioco. A Johannesburg per esempio è molto sabbioso. Credo che non ci sia questo problema nei nuovi impianti. Soprattutto a Durban e a Città del Capo hanno investito moltissimo e hanno costruito o stanno costruendo, nel caso di Città del Capo, dei gioielli, però ecco, dovranno lavorare su questo, perché a Johannesburg per esempio secondo me si è visto che una squadra molto tecnica come la Spagna contro l'Iraq è stata molto penalizzata. Quindi da questo punto di vista l'unica pecca sono i terreni di gioco. Gli impianti invece sono davvero all'avanguardia, e come ricordavi forse insomma non vuole molto a superare quelli italiani, purtroppo. Sì, E dunque, a proposito di Italia, leggevo stamane che tra i biglietti già venduti per il mondiale, finora ne sono stati venduti nel mondo 630.000, 6.063, cifra aggiornata a ieri, sono stati venduti in Italia. Allora, racconta un po' agli italiani che cosa si devono aspettare il prossimo anno in Sudafrica, questi 6.000, tutti gli altri che si aggiungeranno, da un punto di vista, come dire, ambientale, di sicurezza, climatico, gliel'abbiamo già detto, che è meglio che si portino da coprirsi, ma di ambiente e soprattutto di sicurezza. Guarda, l'aspetto della sicurezza è stato una delle sorprese più piacevoli, nel senso che gli organizzatori hanno potuto mostrare al mondo un paese assolutamente tranquillo e sicuro, nonostante i timori della vigilia. È vero, come forse abbiamo già detto una volta, che il paese era invaso di forze di sicurezza, perché ovviamente durante questi tornei, questo accadrà anche durante il mondiale poi. Sì, assolutamente, assolutamente, certo. Però per esempio, ecco, parlando con molti inviati stranieri, con molti corrispondenti stranieri che vivono a Johannesburg, io ho sempre vissuto un po' di striscio, ma è nota come la città più pericolosa del mondo, e invece quello che mi hanno detto tutti è che, come in molte metropoli del mondo, devi evitare di girare di notte da solo e devi evitare determinate zone. In realtà, ripeto, quella della sicurezza è stata una piacevolissima sorpresa. Considerando poi che la maggior parte dei tifosi turisti che verranno qui l'anno prossimo verranno con dei tour organizzati, quindi da questo punto di vista si devono aspettare un clima assolutamente tranquillo e una popolazione molto accogliente e calorosa. Un consiglio che posso dare, se invece il turista non verrà con un tour organizzato, è di noleggiare un'auto, perché il sistema dei trasporti è forse la vera pecca dell'organizzazione. E dal punto di vista dei costi, cioè come il tifoso italiano che arriva, certo, ha un pacchetto in genere, perché in questi casi ci si affida alle agenzie, eccetera. Non solo, i costi attuali non saranno i costi tra un anno, perché l'esperienza insegna che certamente li eviteranno per tutte le voci possibili e immaginabili. Ma attualmente in questa avventura come si regola l'italiano che arriva? Beh, guarda, un euro vale all'incirca 11 rendi in questo momento, per cui in realtà la vita per chi spende in euro è assolutamente conveniente. Il problema, come dicevi, è che quasi sicuramente il prossimo anno i prezzi quantomeno raddoppieranno. Però per chi arriva con l'euro o con il dollaro, nel nostro caso con l'euro, la vita è assolutamente oltre che alla nostra portata, è molto conveniente. E quindi questo, da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Ho letto ancora, e poi chiudiamo questa lunga serie di collegamenti e di aggiornamenti da Sudafrica. Ho letto ancora che, questo lo ignoravo, ma insomma manca anche un anno, in realtà lo stadio in cui si giocherà la finale è tuttora in costruzione, sarà uno stadio, un mostro autentico da quasi 100.000 posti, proprio sulle ceneri di quello stadio dove Mandela nel 90 tenne quello storico discorso, il primo da uomo libero. Sì, è un sito storico praticamente alle porte di Soweto, quindi diciamo il cuore della storia sudafricana. Io l'ho potuto visitare in questi giorni, sembra un impianto meraviglioso, oltre che titanico. Come forse ho già detto parlando del cantiere di Cape Town, non sono un tecnico, per cui non so valutare lo stato dei lavori. Io direi che comunque sono molto avanti per quanto riguarda il Soccer City Stadium, e sarà sicuramente un impianto splendido. Il dubbio, come per molti impianti nuovi costruiti per questo mondiale, è che si rischi di costruire una cattedrale nel deserto, perché questo, dopo il mondiale, poi uno degli impieghi che sperano di poter estrarre dal cilindro è per il mondiale di rugby che contano di organizzare nel 2015. Sì, Però certamente l'utilizzo poi a 5 anni data per un altro avvenimento non si può dire che sia un investimento saggio, ma è il prezzo da pagare, quello di un megastadio, ormai per ogni tipo di grande manifestazione mondiale calcio, olimpiade che sia. Grazie a Stefano Piazza, buon rientro in Italia. E adesso continueremo con le vostre opinioni, i vostri interventi, soprattutto credo da un punto di vista tecnico, perché mi pare che gli Stati Uniti qualche curiosità l'abbiano lasciata. Primo intervento di oggi da Bergamo di Fabiano, buongiorno. Pronto, dica. Buongiorno a lei e ai suoi grandi ascoltatori. Farti i complimenti soliti per la trasmissione, passo subito a cosa volevo dire io, che in pratica in questi giorni continuo a sentire più che altro parlare della stanchezza dovuta al campionato italiano, che a quanto pare è diventato uno dei più faticosi del mondo. Però ieri, guardando anche la partita del Brasile, sembrava che all'interno ci fossero i vari Maicon, Felipe Melo, Kakà, Fati in panchina, Julio César, quindi tutti i giocatori che giocano in Italia. D'altro canto, nell'Italia c'era gente come Grosso, come Cannavaro, come Toni, che giocano in campionati esteri, quindi la scusa mi sembra piuttosto blanda, diciamo. Sono d'accordo. Poi in Italia non dimentichi mai quel moltiplicatore che si chiama stress e che è superiore agli altri campionati. Questo è un dato, credo, oggettivo, visto che a chiamarlo in causa sono non soltanto tecnici e giocatori, ma sono anche medici sportivi, sono anche psicologi, sono... E sono gli stessi giocatori e tecnici poi che giocano, allenano da una parte o dall'altra e sostengono, credo a buon diritto, che la pressione in Italia è superiore, molto superiore che altrove, e questo complica ulteriormente le cose. Però dovrebbe valere, appunto, come diceva lei prima, per esempio per quelli che abbiamo visto ieri sera all'Opera. Farei qualche distinguo. Maicon, per esempio, ha avuto 3 mesi di riposo ultimamente, ne avrebbe fatto a meno, ma quell'infortunio gli ha permesso di rigenerare la condizione. Felipe Melo più o meno invece ha tirato la carretta tutto l'anno. Kakà ha avuto qualche incidente a sua volta. Devo dire che Maicon mi è sembrato più di quantità che di qualità, nel senso che poi a gioco lungo è stato prezioso anche come assist man, ma per il primo tempo intero ha corso e ha regalato palloni sparati proprio a casaccio nell'area avversaria, quando non a fondo campo. Sicché, comunque, per tornare alla sua domanda, sì, è vero, un po' ci si marcia sempre con questa ricerca di alibi ad ogni costo. Luciano, Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo appunto parlare sulla finale di ieri sera. Volevo dire che, nonostante tutto, gli Stati Uniti, pur non avendo una storia del gioco del calcio, si sono dimostrati molto, molto bravi, tra virgolette, palla a terra, delle buone azioni. Io mi chiedo un po', insomma, per quanto riguarda la nostra squadra, cioè l'Italia, vedo che tecnicamente, ma anche con i fondamentali, non ci siamo, secondo il mio punto di vista. Io penso che dalla Serie A alla Serie Z, tra virgolette, è impossibile che non ci siano dei giocatori che possano competere con altri che, in fin dei conti, non sono dei grossi geni e dei grossi, insomma, come intelligenza calcistica parlo, poi fisicamente questo non lo posso dire, però io trovo veramente che siamo un po' scarsini, insomma, tecnicamente. Questo è il mio parere, poi. Sì, no, non è questa una generazione particolarmente ricca dal punto di vista tecnico. Tramontati quelli che, appunto, sono già tramontati o stanno tramontando, tecnicamente in questo momento non c'è granché. Semmai bisogna sperare che maturi una generazione nuova, dove forse qualche valore tecnico in più c'è un valore temperamentale torniamo al discorso del 2006 che abbiamo fatto un sacco di volte in questi giorni. Lì c'era un grande valore di temperamento, di rendimento, di compattezza, eccetera eccetera, ma grandi valori tecnici no, nemmeno in quella nazionale, tant'è vero che quello fu l'ingrediente decisivo per vincere quel mondiale. Sentiamo un paio di voci che arrivano dal Sudafrica per l'appunto. La prima è quella di Juan, che è il centrale romanista che non ha potuto partecipare alla festa dei compagni, o meglio ci ha partecipato ma non da protagonista perché si era infortunato in precedenza nel torneo. Vincere con il Brasile è sempre bello, un titolo così, una partita così difficile, riuscire a battere un placar adverso è stato bellissimo. Prima il Brasile non lottava, il Brasile aveva difficoltà con questo tipo di partita. Voglio tornare a Roma, tornare senza infortunio, tornare a giocare e aiutare il mio compagno. Tirò il contratto con la Roma. Più 4 anni, devo giocare con la Roma. Non mi interessa molto se è ancora con questa società o non. Mi fa piacere se rimane il Sensi perché abbiamo un bel rapporto per la Roma, è il più grande di tutti. I festeggiamenti dei brasiliani a fine partita, scrive Ale, mi sono sembrati un po' eccessivi e stucchevoli. Anche a me, tutto sommato, perché in proporzione mi domando cosa faranno nella finale di un mondiale che, con tutto rispetto, non è è qualcosina di più della Confederation Cup. Sergio, tassista milanese, scrive invece: mi ha colpito la gioia degli spettatori che si vedeva sugli spalti ogni volta che le telecamere li inquadravano. Ed è vero, perché in effetti non è una novità, dove quando si va a portare calcio, anzi grande calcio, in paesi che non sono abituati, beh, insomma, l'entusiasmo popolare è sempre molto alto, ma indubbiamente è stato molto alto anche in questa edizione sudafricana. Francesco ha chiamato da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io intanto la ricordo con affetto a Cremona tanti e tanti anni fa, vedere la Cremonese. E poi volevo tornare alle squadre della Confederation in vista dei mondiali. Volevo dire, gli Stati Uniti mi sembra che abbiano exploit più caratteriali che tecnici. Certo, c'è un progredire tecnico costante, ma sono più exploit caratteriali, secondo me. Il Brasile invece va sempre per vincere. La dovrà a perdere è una, di solito è una sorpresa. Il Brasile va per vincere. Al contrario di Spagna e Italia, che l'Italia non mi sembra sia una sorpresa che dopo un mondiale vinto, dopo delle grosse vittorie abbia un periodo di appannamento totale. Tramonta una generazione e ne deve sorgere un'altra, mi sembra normale. Mentre la Spagna è sempre stata un'ottima squadra, ma sappiamo tutti che vince una volta ogni morte di Papa. Poi noi ci siamo concentrati su queste squadre, non scordiamoci però che ce ne sono tantissime altre al di fuori della Confederation. Adesso dico Argentina, anche se magari farà pena poi ai mondiali, adesso non so come sia messa. Poi ce ne sono tante altre certo, ascesa. Ce ne saranno almeno 32 al mondiale. Di queste 32 io sono convinto che una dozzina almeno saranno competitive. Poi la storia insegna che alla fine sono quelle 4 o 5 che possono competere per vincere, e sono in realtà le due sudamericane e le tre europee, e le tre europee sono Germania, Inghilterra e Italia. Oppure Italia, Germania e Inghilterra. Alla fine è sembrata così, con l'eccezione delle prime due edizioni andate all'Uruguay, che peraltro allora era una scuola primaria. Tecnicamente, se parliamo di Stati Uniti, però, io ho visto qualcosina di più di quello che dice lei. Individualmente, perché se parliamo di Donovan, stiamo parlando di un grande giocatore in questo momento, ma proprio di un grande giocatore. Se parliamo di quel secondo contropiede del 2-0, beh, insomma, diciamo che forse va più rubricato alla voce tattica che tecnica, ma ci vuole una buona tecnica però per giocare di prima la palla a quella velocità. E quindi io tecnicamente ho notato che invece hanno fatto dei progressi interessanti, sicché ripeto, non so, poi credo che debbano ancora qualificarsi per i mondiali gli americani, quindi hanno ancora questa formalità da adempiere. Dopodiché non mi stupirei molto se avessero una buona quotazione e un buon trattamento nel sorteggio, non dico come prime come teste di serie primarie, ma magari già nella seconda fascia. Da Bologna ha chiamato ancora Paolo, buongiorno. Pronto? Buongiorno Paolo, dica. Pronto, buongiorno. Io sono di Bologna, mia moglie è di Barcellona, per cui vado spessissimo a Barcellona, sono reduce da una settimana di ferie da Barcellona. No, nulla, volevo dire questo, è una critica alla dirigenza del Milan. Sendo in Spagna, poi mi piace leggere un po' i giornali, soprattutto i tifosi del Real Madrid, hanno quasi la sensazione che abbiano preso Kakà per un pezzo di pane, adesso esagero perché comunque la cifra è colossale, ma si è confrontata con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ovvero visto questa necessità che pare abbia il Milan di fare un po' di cassa, avrebbero potuto ricavare senz'altro di più da Kakà, perché è tutto da dimostrare che Cristiano Ronaldo valga il 50% più di Kakà, tanto più che Galliani stesso più volte ha detto che Kakà era il più grande giocatore del mondo, eccetera. E niente, quindi se questa necessità di far cassa c'era, dovevano essere sicuramente più abili nella vendita. Forse Cristiano Ronaldo non credo sia c'è la legge della domanda e dell'offerta. Secondo me è stato sopravvalutato Cristiano Ronaldo, mentre Kakà più o meno ha preso il suo prezzo in questo manicomio, intendiamoci, non partendo dal presupposto che viviamo in un manicomio, allora il prezzo di Kakà è realistico, quello di Cristiano Ronaldo è fuori da ogni parametro, ma di valore di riferimento. E poi ripeto, domanda e offerta, sicché non è che l'hanno poi venduto così male, a parer mio, l'hanno venduto da mercato. Torniamo alternando voci sudafricane ad altre invece che arrivano da più vicino. Dal Sudafrica arriva quella di Maicon. Vado a San Paolo, dopo San Paolo vado a Belo Horizonte a trovare i miei figli, mia moglie, e poi non lo so, poi vediamo in futuro. Io devo andare in vacanza perché sono troppo stanco. Io sono felice a Milano, come ho detto tante volte, sono contento in questa squadra. Se loro hanno visto questa Confederation Cup che io ho fatto, se vogliono fare un riconoscimento benissimo da parte loro, rimango all'Inter, senza problemi. Senza problemi, ma con il riconoscimento. Ha imparato bene l'italiano Maicon, perché si sente con che proprietà lo parla, per esempio rispetto a Juan che abbiamo sentito prima. Ha imparato anche come funzionano le cose qua da noi. Tocca a Diego da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Granzini. Io volevo fare una considerazione sugli Stati Uniti, che ho visto alcune partite degli Stati Uniti e devo dire che mi ha veramente stupito questa squadra, nel senso che secondo me si è dimostrata la squadra più in forma del campionato, e anche praticamente rispetto ad altre che erano tipo il Sudafrica, che in forma lo stesso, però praticamente qualcosina in più. E ad esempio la partita che ha fatto contro la Spagna, che sia il primo tempo che il secondo tempo è stata veramente ha corso al mille, chiudendo gli spazi, stando sempre con un pressing veramente eccessivo, e col Brasile gli è riuscita solo in parte, nel senso col primo tempo, infatti erano di due gol avanti, e nel secondo tempo dopo ha iniziato a cedere ed è venuto fuori il Brasile, come noi tutti sappiamo, dove ci sono grandissimi campioni tecnicamente. La tecnica è molto più elevata. È un calcio, certo. È un calcio dispendioso quello degli americani, su questo non c'è nessun dubbio, perché soprattutto quando giochi una partita capolavoro come quella con la Spagna, io credo che loro lì abbiano giocato al 90-95% del loro rendimento, sia atletico che anche tattico e che anche tecnico. E poi non sempre ti gira a quella maniera. In fondo, a un certo punto ieri sera hanno ceduto a un numero di occasioni superiore che il Brasile stava costruendo, mentre con la Spagna, diciamo che gli spagnoli qualche volta davanti alla porta è andata anche storta, no? è girata maluccio. Forse poteva già finire in un'altra maniera quella partita, ma insomma era un torneo, diciamo, di vigilia, un torneo di presentazione, di anticipazione. Mi pare abbia anticipato che c'è una nuova realtà mondiale che potrebbe essere che potrebbe cambiare dimensione. Questa è certamente gli Stati Uniti, mi sembra la vera novità di questa manifestazione. Felice ha chiamato da Chieti, buongiorno. Sì, salve dottor Garanzini. Niente, io volevo sottolineare un aspetto. Il risultato della nostra nazionale è stato, diciamo, deludente sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico, però mi è parso di capire, di vedere, e che non ci sono stati grossi appunti nei confronti del commissario tecnico, cosa invece che è stata fatta puntualmente nei confronti del suo predecessore Donadoni, che, se non ricordo male, è uscito dagli europei pur non giocando benissimo, però contro una Spagna che contro di noi ha vinto solo ai calci di rigore. Mi sembra che l'atteggiamento anche, non ho rilevato molte critiche nei suoi confronti, così come non ho rilevato critiche nei confronti di Casiraghi, che va di bene, ha giocato anche bene, però all'epoca Gentile fu fatto fuori senza in malo modo, eppure aveva vinto un europeo. Volevo cogliere il suo parere a proposito. Beh, insomma, il mio parere è che di Lippi e Donadoni mi ha parlato per l'intera settimana scorsa abbondante, e alla fine ripetendo sempre le stessissime cose. Io ho detto, ho sostenuto più o meno quelle che sostiene lei. E adesso lei amplia il discorso anche a Gentile e a Casiraghi. Ogni tanto ci sono dei cicli che finiscono, ogni tanto ci sono dei trattamenti più o meno giusti, ogni tanto c'è qualcuno che gode evidentemente di aperture di credito maggiore. Mi sembra che nel caso di Lippi questa apertura di credito derivi da un mondiale, poi si può discutere sull'opportunità di un ritorno in panchina, cioè sul fatto di lasciare e riprendere l'Italia, come se, l'ho già detto in altre occasioni, come se fosse un passaggio in un piede a terra. Ma io l'ho sempre trovato abbastanza inopportuno questo ritorno, proprio da questo punto di vista. Secondo me il ruolo di CT è una cosa da cui non si va e viene, sia pure con tenendo conto delle motivazioni per cui Lippi se n'era andato, però una volta che te ne vai, secondo me dopo non torni. Questi sono tutti argomenti superati, lasciano il tempo che trovano, anche e soprattutto perché in campo ci vanno i giocatori, e quindi quindi sono loro alla fine, nel bene o nel male, che fanno i risultati e non i commissari tecnici. Dopodiché mi pare che infierire su Casiraghi dopo le modalità con cui l'Italia è uscita, l'Italietta, insomma l'Italia piccola mica tanto di statura, piccola di età, è uscita dalla Germania l'altra sera, beh, insomma, sarebbe proprio un po' eccessivo. Sergio ha chiamato da Pescara, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Io volevo essenzialmente parlare ancora della partita di ieri sera, della finale. Contestare un po' i premi che sono stati dati un po' ai giocatori, soprattutto due: il premio dato al miglior giocatore a Kakà, non mi sembra che fosse stato il giocatore del Real Madrid ancora il migliore di quelli che si sono visti ieri sera. Tra parentesi, poi c'erano tre premi: oro, argento e bronzo, e magari si poteva dare a Donovan, che sicuramente poteva essere una magra consolazione, ma è sempre un avvenimento storico per loro, poteva essere un buon premio. È un po' il vezzo di dare per forza il premio alla squadra che vince piuttosto che al giocatore, e questo vale anche per Pallone d'Oro a volte. E poi l'altro che mi ha fatto proprio così un po' ridere è quello dato a Lusio per il fair play, cioè ha menato per tutta la partita Altidor, è andato vicino, non so nemmeno se è stato anche ammonito, insomma, dare premio fair play in questo modo solo perché della squadra vince. Ma guardi, sul secondo dei premi è stato dato evidentemente un premio, intanto i premi, io sono per Longanesi, il vecchio grande piccolo Leo Longanesi, che diceva: le onorificenze non solo non bisognerebbe accettarle, ma soprattutto bisognerebbe non meritarle. Tutti questi premi fanno parte di un cerimoniale eccessivamente ridondante. Sulla seconda parte, insomma, chi se ne frega del fair play in una manifestazione di quel genere. Lucio ha giocato una partita agonisticamente tirata. Gli americani, guardi che non scherzano, il fatto di agonismo lo si è visto anche nelle partite prima. Sono invece d'accordo con lei, in particolare sul premio a miglior giocatore. Non mi sembra che Kakà abbia fatto una confederation straordinaria. Poi ieri sera è stata decisiva una sua accelerazione per cambiare il corso della partita in altre due o tre occasioni, quel colpo di testa era anche entrato, ma insomma sono d'accordo con lei che Donovan, per esempio, premiando Donovan come miglior calciatore del torneo, si sarebbe dato un riconoscimento intanto a un eccellente giocatore che ha giocato una serie di partite ad alto livello, veramente ad alto livello, e poi sarebbe stato un riconoscimento anche agli Stati Uniti, a questa nuova scuola statunitense. Tocca, credo, ad Antonio. Antonio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro. Grazie. Fate i debiti complimenti in ordine alla radio, alla redazione, a lei. Mi hanno un pochettino bruciato. Volevo fare una considerazione sulla situazione tattica scelta dagli Stati Uniti nei confronti del Brasile rispetto a quella fatta da noi. Un solo attaccante di peso, tanti giocatori veloci che giocano intorno al giocatore di peso, grande sempre giocate di palla a terra, sostanzialmente tutto quello che noi non abbiamo fatto, concedendo tre attaccanti di cui due pesantissimi, di cui uno incredibilmente scriteriatamente impostato a tenere il giocatore di maggior velocità, detto Maicon, che sarà di quantità, sono interista, ma certamente anche di grande velocità, ha messo la nostra nazionale in una condizione di grande difficoltà rispetto a un Brasile in tutte le parti, messo nelle condizioni di maggior vantaggio rispetto a quello che potevamo fare noi. Detto questo, volevo una sua considerazione, poi l'ascolto per radio. Da quando c'è Lippi noi non abbiamo mai un attaccante che riesca a essere costante, determinante e di quantità di gol. Se noi andiamo a vedere in tutta la condizione di Lippi, ci accorgiamo che magari c'è una squadra che segna tanto con tanti uomini, ma sostanzialmente a questa squadra manca sempre in modo fondamentale l'attacco. A volte mi chiedo se manca il vero attaccante di grandissima qualità o se manca il gioco per essere un buon attaccante nelle condizioni di essere di fronte alla porta in maniera un pochettino più... Non so, Antonio, io sulle domande epocali faccio sempre un pochino di fatica. Credo così a naso che sia l'attaccante che manca, perché insomma mi sembra ricordare che quando Lippi allenava i club non è che i suoi attaccanti fossero penalizzati da un modulo, cioè ricordo altri attaccanti in passato i cui allenatori per esempio in certi periodi non giovavano perché magari richiedevano troppi ripiegamenti all'indietro oppure troppa partecipazione al gioco, anche al controgioco. Non mi sembra sinceramente il caso di Lippi, poi invece magari sì, insomma non mi sembra quello la risposta più pertinente, mi sembra l'altra, cioè mi sembra che sia un momento di penuria di grandi attaccanti di scuola italiana, ma grandi a livello internazionale, cioè c'è sempre il discorso tra il cortile e fuori, insomma. Appuntamento con la rubrica curata da Nicola Filippone, vediamo cosa è successo, ascoltiamo cosa è successo nella storia dello sport recente, ma non tanto recente, mi sembra di ricordare, se ho capito bene la data pescata oggi da Nicola Filippone, cosa è successo, dicevo, il 29 giugno di un certo anno. Sembra ieri. 29 giugno 1933. Al Madison Square Garden di New York, il friulano Primo Carnera sfida lo statunitense Jack Sharkey. In palio c'è il titolo mondiale dei pesi massimi. I due si erano già affrontati due anni prima e Sharkey era riuscito a imporsi ai punti. Stavolta però non c'è storia. I colpi di Carnera sono dirompenti e al sesto round il friulano centra l'avversario con un montante destro, mandandolo KO. Primo Carnera, a 27 anni, diventa così il primo italiano a conquistare la corona mondiale dei pesi massimi. E l'ho detto che oggi avrebbe pescato nelle memorie antiche un mito dello sport italiano, come fu indubbiamente, come fu Carnera. Tocca a Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Garanzini. Dica. Volevo ricollegarmi anche all'ultimo intervento. Secondo lei non era anche una mancanza di preparazione sui basilari da parte dei ragazzi ancora a livello di scuola calcio per quanto riguarda la nostra, perché avevo notato che Fabiano fare quel primo gol che è il classico dei nostri attaccanti degli anni 70, cioè girarsi su piede perno, cambiare torsione proprio sul... Ah, certo. che era un classico di Riva, Boninsegna, mm-hmm. Prati, e ne ha fatti un sacco di gol così. Vero. Un Toni o un Gilardino riuscire a fare quel movimento lì non li ho mai visti, perché loro si buttano all'indietro e regolarmente la palla la sparano in tribuna. Quindi volevo sapere se secondo lei è perché i nostri ragazzi arrivano a 17-18 anni, vengono incensati come campioni, poi non riescono a andare oltre, a migliorare i basilari, oppure se c'è un problema proprio di impostazione da parte della scuola calcio. Ma sinceramente non ne so rispondere. Che si facciano grandi progressi una volta entrati in carriera, questo no. Io ricordo sempre, per fare un esempio che mi ha sempre abbastanza colpito, ricordo Bergomi. Bergomi a 17 anni era un esterno destro, come si direbbe oggi, come si dice oggi, o un terzino destro, come si diceva allora, di qualità enormi, perché ha una padronanza assoluta, il fisico, la velocità, lo scatto breve, la progressione, tutto. Questo non si è più mosso, cioè è diventato anche campione del mondo giovane, cosa non, come qualità di rendimento non... Secondo me non è migliorato, ha acquisito esperienza, questo sì, ma non è mai migliorato. E Bergomi era un atleta serissimo, e quindi io sono convinto che ci abbia provato. Probabilmente lui aveva raggiunto già il limite a quell'età e non aveva margini ulteriori. Altri invece meno seri e meno atleti e meno professionisti di Bergomi magari si lasciano andare, cioè non cercano di migliorare per pigrizia loro. Altri nascono con qualità tecniche più cospicue, proprio come dotazione originaria. È il caso in genere, no, dei brasiliani, che da un punto di vista tecnico mediamente sono superiori agli altri. Ripeto, queste sono le grandi domande epocali che qualunque cosa tu rispondi, puoi fare delle riflessioni. Allora, la riflessione sì, la risposta vera secondo me non c'è, o comunque si presta sempre ad alcuni esempi a corredo, no, che la possono sostenere, e ad altri invece che no. L'ascoltatore ha chiesto, e lo accontenta Flavio Suardi, dove giocano il portiere americano e la punta centrale sudafricana. Il portiere americano Howard gioca nell'Everton con buone soddisfazioni, mentre Mpela, il sudafricano, è un classe 84 che gioca nella sua terra, gioca nel campionato sudafricano. Io non ricordo più dove gioca Donovan, adesso già che sono qua lo chiedo a Flavio Suardi, che ve lo dirà, perché ne ha girate un po' di squadre. Mi piacerebbe anche sapere che età, perché un pensierino, sempre tenendo conto che in queste manifestazioni poi bisogna andarci un pochino con le molle, perché dipende da come uno ci arriva, la situazione, la condizione psicofisica. Cioè, l'altro anno ricordo che tutti impazzimmo in una sera per Arshavin. Dovessimo dire che da allora Arshavin l'abbiamo rivisto a quel livello, mai, forse non lo rivedremo mai più. E comunque, nonostante sia andato in Inghilterra all'Arsenal, eccetera, insomma, prendiamolo un po' con le molline. Ma secondo me, insomma, questo Donovan è un giocatore su cui fare più di un pensierino. Da Roma ha chiamato Corrado, buongiorno. Buongiorno Garanzini, è un piacere parlare con lei. Grazie. Senta, non so se avete già valutato questa cosa. Secondo me, in prospettiva del prossimo anno, sì, per i campionati del mondo, la prestazione atletica delle squadre sarà molto più elevata, diciamo delle squadre di seconda fascia, e quindi le squadre di prima fascia dovranno correre molto di più, perché il recupero sarà molto più breve. Non so se questo l'avevate già valutato come impegno delle nazionali nel prossimo anno. Cioè che le squadre di seconda fascia avranno, loro prestano molto il loro incontro sulla prestazione atletica. Sì. Non avendo la tecnica, chiaramente, sulla prestazione atletica, il recupero a quelle temperature è molto più breve, perciò non faranno più una sola partita, ne faranno due o tre a certi livelli, e di conseguenza le grandi squadre dovranno soffrire molto. Credo che sarà, sì, ma infatti Corrado, ne abbiamo parlato proprio in apertura, abbiamo accennato a questo argomento. Si torna a giocare al freddo, un mondiale al freddo, comunque nella stagione invernale, dopo 32 anni, perché l'ultima volta fu in Argentina nel 78, e questo un po' le cose le cambierà, indubbiamente, perché siamo reduci da una lunga serie di edizioni di mondiali al caldo, poi più o meno al caldo, però al caldo. che quindi comportavano problemi di recupero, eccetera. Lei ha detto molto bene, in effetti è così. Beh, Donovan ha fatto 6 partite nel Bayern Monaco quest'anno, è un 82, quindi vuol dire che ha 27 anni o con più di ora a compiere. Beh, per come è andato il Bayern, non so, forse qualche partita più di 6, se era in condizione come era in questa Confederation, le meritava, oppure va a sapere, chi può dirlo, oppure se è riposato, se è ben allenato, con calma, tutto l'anno tranquillo, e poi tutto quello che aveva da dare l'ha dato negli Stati Uniti. Certo, è sembrato un eccellente giocatore proprio. Alfredo da Milano, buongiorno. Eccolo, mi ero mezzo addormentato, sono fuori dall'ospedale per quello. Volevo semplicemente dire questo, come mai qua per allenare la Serie B, la Nazionale B, non chiamano mai dei bravi allenatori che già si sono fatti vedere nel nostro campionato? Gianpaolo, Arrigoni, Beretta, gente che sa mettere in piedi la squadra e sul campo anche, e vedono le varie situazioni. Gli altri, quando cominciano a giocare, non sanno più che pesci pigliare. Vedi proprio Casiraghi l'altra sera, non sapeva cosa fare. Le pare o no? Non lo so, io non ho visto la partita l'altra sera, non mi permetto di giudicare in ogni caso sulla base di una partita sola. La differenza è una differenza che c'è tra gli allenatori federali e gli allenatori del mercato. Io sono per i federali, però per i federali sempre. Cioè, io sono per una scuola di allenatori che cresce al suo interno i tecnici di nazionale. È stato così per tanti anni e per tanti anni funzionava, poi invece ci si è rivolti al mercato, ha funzionato anche così, ma sono certo che la specializzazione che uno può avere facendo la sua brava trafila e quindi partendo dalla nazionale, che ne so, under 15 piuttosto che poi 18 piuttosto che poi l'under 21, sino ad arrivare, se ha le qualità e se ha la personalità, alla nazionale maggiore. Quella secondo me rimane la formula ideale, anche perché evita qualsiasi tipo di contaminazione con il mercato, con i procuratori e con tutto il resto. Eviterebbe anche dimissioni in certi casi. Nella provincia di Cuneo, segnala Danilo, in zona Mondovì, il segnale radio di Radio 24 non è più ricevibile, non è più ricevuto da venerdì. Prontamente segnalato, per sperare di rimediare al volo. Tocca a Luigi, ancora dalla provincia di Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno, dottor Garanzini. Sì, buongiorno, dica. Sì, senta, io volevo fare un intervento in merito alla campagna acquista della Juventus, visto che dopo aver già preso Diego, insistono nell'acquistare un altro centrocampista come D'Agostino, quando i loro problemi sono sulle fasce, sia a destra che a sinistra, e visto che uno come Maicon sembra che sì, e poi sul mercato non sarebbe meglio investire 30 milioni o quello che è per un terzino giovane, anziché per un centrocampista? Non so che risorse abbia ancora a disposizione la Juventus, abbia deciso di destinare ancora a questo mercato la Juventus dopo gli sforzi che ha già fatto sino a qui, e quindi credo che sia un problema di budget, perché se fosse un problema di merito sarebbe grave, nel senso che non riconoscere in Maicon oggi il più forte esterno destro del mondo, o comunque uno dei primi tre, non è quello il problema, insomma il problema sono le risorse. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Soardi in redazione, appuntamento a domani.